Bella raga, buona giorna, sera. Non è credibile, corretto dietro. Eh? Hola! Ok, ciao! Ciao! Allora, non so se possiamo risparmiarci una brevissima presentazione di chi siamo. Off topic. Vabbè. Allora, siamo un collettivo, un laboratorio politico. Off topic, l'ho detto off topic off topic lab, e abbiamo casa a Piano Terra, che ormai è occupato da 12 anni e che è nel cuore di uno dei quartieri che vede la massima, no non è vero, la massima no, ma palesemente un processo e fenomeno di finanziarizzazione della città. Stiamo parlando dell'isola, del quartiere Isola, che forse è uno dei primi a cui è stato dato un nome affinché potesse essere venduto, e questo sta accadendo ad altre quasi 90 aree della città metropolitana di Milano, dove l'interesse ovviamente è sempre il solito. Cioè, impoverire, escludere le fasce più disgraziate della società e andare a rimpinguare le tasche di chi può almeno fingere di investire, perché spesso si tratta anche di quello, di quote che non si sa bene, facendo qualche giro, qualche ricerca, non si sa bene da dove arrivino. Stiamo parlando, per esempio, di SGR, che sono letteralmente, scientificamente, un'invenzione della fine degli anni 90, 99, 98, cioè proprio un'invenzione che favorisce il processo che dicevamo prima e anche tanti altri, tra cui la gentrificazione. Questo per dire che cosa? Che, vabbè, si potrebbero dire un sacco di cose, per dire anche che più inventano e hanno la capacità di inventare degli strumenti finanziari, e meno noi riusciamo a seguirli, e questo è molto più facile, rende molto più facile per loro non solo spingerci fuori dalla città, dai nostri quartieri, ma appunto arricchirsi. C'è una traduzione in corso lì. Ah, ok. Allora magari. Ah, che bello! Benvenute. Chi è? Quanti siamo? Quanti siete? Tre. Da dove? Ah, ok. Ok, ok. No, scusa, magari parliamo un po' più con calma adesso che sappiamo. Ok. E quindi dicevamo, è questo appunto rende difficile anche per noi il lavoro di narrazione, di narrare, di contronarrazione di questi fenomeni, perché le invenzioni sono le loro, le parole sono le loro. Quindi queste SGR sono grandi fondi di investimento che stanno appunto parallelamente ai grandi eventi e processando questo impoverimento sociale su tutti i livelli. E, vabbè, passerei la parola a Miss Maina, che oggi è Miss Maina, solo per oggi. Grazie Mary, ciao a tutte, ciao a tutti. Allora, il tema di stasera sono le Olimpiadi. Volevamo parlare di Olimpiadi Milano-Cortina, ma in generale e più in generale anche di tutte le Olimpiadi dell'era moderna, da quando De Coubertin ha avuto questa idea magnifica di riesumare le Olimpiadi e tutti i grandi eventi, perché sono tutti connessi, hanno tutti un filo che li unisce. Io vado un attimo a andiamo a recuperare delle slide che delle slide che avevamo elaborato per una iniziativa in collaborazione con No Olympics Anywhere di Los Angeles, perché come sicuramente saprete, i movimenti no olimpiadi sono diffusi in tutto il mondo, perché ormai le olimpiadi sono diventati un evento indesiderato e indesiderabile. Tant'è vero che ormai è diventato un problema trovare città candidate che si candidino per ospitare i giochi olimpici. Abbiamo visto anche dei casi dove le olimpiadi, quando dei casi in cui la parola è stata data ai cittadini e alle cittadine, e i giochi olimpici sono stati annullati ad assegnazione già avvenuta. Il caso di Calgary, ma non solo di Calgary, dove è stata data l'opportunità alle persone di esprimersi, agli abitanti, e hanno votato in massa contro i giochi olimpici. Quindi il Canada, ad esempio, è stato costretto ad annullare i Calgary, è stata costretta ad annullare i giochi olimpici, perché c'era questa contestazione molto forte. Così è avvenuto in Giappone, a Tokyo, per le Olimpiadi che si sono concluse recentemente. Così sta avvenendo in Francia. Tra l'altro, la contestazione in Francia si è acuita con la riforma delle pensioni, dell'età, l'innalzamento dell'età pensionabile. Tra le varie iniziative sono andate a invadere la sede dei Giochi Olimpici di Parigi, perché se alzate praticamente l'età pensionabile non si possono fare i giochi. E questo avviene perché di fatto le Olimpiadi, ma non solo le Olimpiadi, anche i mondiali di calcio, anche Expo, come soprattutto in questa sede, non era questa sede quando è nato No Expo, però come sa bene in particolare Fornace, i grandi eventi sono dei trasferimenti, enormi trasferimenti di risorse pubbliche in poche tasche private. Come Expo, anche le Olimpiadi generano cemento, precarietà e debito pubblico. Non le ho dette in ordine giusto, ma il senso è quello. Così come le Olimpiadi di Torino, ad esempio, che sono le Olimpiadi più recenti che abbiamo ospitato. Scusate, ma devo inforcare gli occhiali. Ecco. Ne abbiamo di esempi un'infinità, o meglio, tutti i giochi olimpici, che siano estivi o invernali, hanno intanto sforato i costi preventivati di parecchi milioni di dollari, e costi che proprio per il contratto che si sottoscrive con il CIO quando si ospitano dei giochi olimpici, gli extra costi devono essere coperti dal paese ospitante con soldi pubblici. Tutte le Olimpiadi hanno quindi lasciato, oltre alla devastazione ambientale, oltre a delle ricadute gravissime sociali, perché molto spesso dove si svolgono i giochi le fasce più deboli della popolazione vengono allontanate con la forza. A parte l'esempio del Messico, di Città del Messico, ma è avvenuto anche a Los Angeles e avverrà ancora questa volta. Le persone, diciamo le fasce povere, o comunque che non fanno immagine, o comunque che possono influire negativamente sugli affari, vengono di fatto allontanate. Nel nostro caso potremmo usare, senza scomodare Italia 90, che da questo punto di vista è stato un disastro, le Olimpiadi di Torino, che erano partiti con all'epoca 2 miliardi e 430 milioni di costi preventivati, alla fine ne sono costati quasi il doppio. Come è stata, questo solo se, scusate l'inglese, non è per snobismo, non è per tirarsela, ma era, come dicevo, erano state preparate per le compagne e i compagni di Los Angeles. Da un punto di vista economico, ma anche ambientale, magari dico cose che già sapete tutte e tutti voi, però qui abbiamo l'esempio del trampolino di Pragelato, dove è stato fatto il trampolino e anche l'albergo che doveva ospitare gli atleti, è stato pagato 34 milioni di euro, ma il costo annuale per la gestione operativo in esercizio è di 1.400.000 euro, fermo senza utilizzarlo per la manutenzione ordinaria normalissima, 350.000 euro, senza utilizzarlo. È stato abbandonato subito dopo le Olimpiadi di Torino 2006. Una piccola curiosità, tanto per darvi un'idea dell'assurdità di opere di questo genere, il totale degli atleti di questa disciplina che fanno il salto dal trampolino, di tutte le categorie, ammonta a 20 atleti. Quindi per 20 atleti in Italia hanno speso 34 milioni di euro per una cosa che non serve a nessuno. Ci sono solo 12 atleti in Italia. Hanno sbancato una montagna per fare quel trampolino. Questa invece è la pista di bob di Caresana, torinese. Anche questa è costata 61 milioni di euro. Il costo di gestione in esercizio era di 3 milioni e 300 mila euro all'anno. Fermo, tenendola ferma, sarebbe costata 700 mila euro all'anno. Anche questa abbandonata immediatamente dopo le Olimpiadi. Tra l'altro, per far funzionare l'impianto ci volevano 450 tonnellate di ammoniaca per produrre il ghiaccio. È stato abbandonato pochi mesi dopo, e questo è il pezzo di valle che hanno devastato per poter realizzare quella pista. Questo è lo stato attuale della pista. Lo usano per fare dei pezzi, dei murales, delle scritte, e ci vengono giù in bicicletta. Siamo arrivati poi a questa iattura dell'assegnazione dei giochi a Milano Cortina. C'erano solo due città candidate. Perdonatemi il caldo, l'età, poche ore di sonno, non mi ricordo qual era l'altra città, ma per loro era in Svezia o in Scandinavia, era in Scandinavia. E loro se la sono scampata, non gli è stato assegnato i giochi. E qui vediamo tutta una serie di personaggi che possiamo intuire le ragioni per cui sono così felici, così contenti di aver vinto le Olimpiadi, l'assegnazione delle Olimpiadi. Le Olimpiadi cosiddette sostenibili, addirittura a costo zero, avevano detto. Quindi zero impatto ambientale, tutto a carico dei privati, che avrebbero dovuto sborsare 350 milioni di euro, e poi tanti, tanti profitti dai diritti televisivi, dai biglietti, eccetera, eccetera, eccetera, con ricadute positive sul turismo e le solite cose che raccontano e che hanno raccontato anche per Expo e per tutti gli altri grandi eventi che il paese ha ospitato. È un meccanismo che si basa un po' concettualmente sull'economia della scommessa, cioè vengono preventivati dei benefici, dei profitti in termini economici, in termini di lavoro, di posti di lavoro stratosferici, che mai vengono, non si avverano mai, non vengono mai mantenuti. Non è mai successo nella storia delle Olimpiadi, da nessuna parte, E infatti, come sappiamo, generano debito, cemento, precarietà, devastazione ambientale. Tra l'altro, trasferire queste risorse in momenti come questo, dove stiamo attraversando un periodo di dove la situazione, le criticità del territorio sono aumentate, si sono aggravate, ci sono ponti che crollano, fiumi che esondano e soprattutto c'è una questione sociale che rimane irrisolta e si aggrava ogni giorno di più, e il nostro paese si permette di spendere miliardi di euro in questa cosa. Tra le varie cose che ha generato Expo, ad esempio un grande evento come Expo, è stato il trasferimento di alcune facoltà della statale, una università pubblica, nell'ex area di Expo. Tra l'altro è stata una decisione presa dal consiglio di amministrazione, dal CDA di Arexpo, che ormai disperati, che non riuscivano a vendere le aree, perché tutte le aste per la vendita, la cessione delle aree, la valorizzazione delle aree di Expo sono andate deserte, e quindi serviva un nome di prestigio per attirare investitori, senza il quale con ogni probabilità il progetto post Expo sarebbe miseramente naufragato. Ed ecco che il consiglio d'amministrazione di Area Expo ha questa idea: proporre attraverso Regione Lombardia, proporre alla statale con un finanziamento di trasferire le loro facoltà scientifiche ad Expo. Il resto della storia credo che sia abbastanza conosciuta. Noi ci siamo mossi prima dell'assegnazione, perché insomma l'esito di quella lotteria era abbastanza scontato, e quindi abbiamo prodotto un pieghevole. Purtroppo sono rimaste solo due copie, e questa è una di quelle. Magari lo regalo a Fornace. Dove ci è venuta questa idea della pista di neve, usando un'immagine iconica di un famoso film, dove questa donna si trastulla con una pista di neve, buco nell'acqua, dove abbiamo riportato praticamente tutti i costi delle Olimpiadi, no? E praticamente dal 92 ad oggi non è mai successo che un'edizione delle Olimpiadi non abbia sforato i costi preventivati e non abbia lasciato grandi debiti pubblici, purtroppo. Quindi lo svolgimento lo stiamo vedendo, e credo che sì, questa è una delle altre iniziative che abbiamo fatto assieme alle compagne e ai compagni di Los Angeles, dove sono attivissimi, fanno un sacco di cose, girano anche il mondo, vanno in Giappone con gli altri comitati contro le Olimpiadi. E quindi queste slide non sono aggiornate ad oggi, ma quello che stiamo vedendo oggi è che ovviamente queste Olimpiadi a costo zero ed ecosostenibili hanno ormai superato i 2 miliardi, sono intorno ai 2 miliardi di finanziamenti pubblici, e stanno coinvolgendo un'area su un raggio di 450 chilometri, perché ovviamente non si può sciare a Milano. Sì, qualcuno ci ha provato la montagnetta, però vabbè, è troppo, non ha, diciamo, le caratteristiche adatte per fare delle Olimpiadi con sci da discesa, slalom o discesa libera e quant'altro. Quindi sono state coinvolte ovviamente l'Ampezzano con Cortina, anche la Valtellina, e Milano ovviamente, che ospiterà il villaggio olimpico, che poi diventerà uno studentato privato sullo scalo di Porta Romana, ad esempio. Ecco, le conseguenze sono proprio queste, cioè vengono utilizzate delle risorse pubbliche importanti, si parla ovviamente di miliardi di euro, che vengono sottratte alle vere necessità del paese, all'emergenza abitativa, al lavoro, alla sanità, cioè dico delle banalità, lo so, per fare delle opere assolutamente inutili, non richieste, che non servono a niente e nel caso di impianti sportivi verranno abbandonati subito dopo le Olimpiadi. Tant'è vero che non si è pensato di ripristinare la pista di bob di Caresana Torinese. Fanno una pista dove ce n'era già una a Cortina e che è stata abbandonata dopo le Olimpiadi, che addirittura erano negli anni 50, hanno fatto le Olimpiadi a Cortina. Quindi c'è questo meccanismo perverso dove vengono favoriti, guarda caso, ancora una volta, interessi privati finanziati e sostenuti con risorse pubbliche. Mi fermerei qui, vi ho asciugato abbastanza. Ci sono i compagni di Sport Popolare che invece hanno un contributo sugli altri aspetti squisitamente sportivi, credo, e anche qualcosa di più sulle Olimpiadi. Grazie per la pazienza. Ciao, io sono Telmo, sono un compagno della rete di Sport Popolare che da, diciamo, un tot di mesi si è andata aggregandosi in quel di Milano con varie realtà e individualità che si sono accostate, si accostano ogni giorno comunque a una realtà di sport alternativa, a una pratica, a un allenamento che è fatto in collettività, ti permette di crescere all'interno di un gruppo, esattamente come tutte le lotte che vengono portate avanti all'interno di spazi e all'interno di realtà diciamo che ci accomunano. Per cui da quello che portiamo noi come apporto su quello che è in realtà il contributo formativo che Off Topic da ormai un annetto sta fornendo anche a noi come rete di Sport Popolare è più legato alla presenza nelle strade, innanzitutto, perché comunque come rete di Sport Popolare, come praticanti di uno sport, partiamo dal basso, come lo facciamo tutti, e ci leghiamo a degli spazi a cui nessuno si è voluto legare o che qualcuno ha costruito e poi ha lasciato lì, come succede il più delle volte. In tutte le situazioni, le dinamiche di lotta, comunque sappiamo che l'apparato repressivo agisce istantaneamente quando può farlo, quando ha i mezzi per farlo, soprattutto quando si prospettano tempi, diciamo, floridi per la città di Milano e per quelli che sono i cambiamenti urbani, economici, che contraddistinguono dinamiche ed eventi così impattanti. Perché queste dinamiche saranno molto impattanti, soprattutto sulla maggioranza della popolazione di Milano che, ahimè, non potrà permettersi più neanche la sedia dove si siede a casa sua. Essendo comunque compagni che partono dallo sport e che poi collegano tutto questo ad altre lotte diametralmente opposte, riconosciamo lo sport, per come lo viviamo noi, qualcosa che non può essere assolutamente associabile a quello che viene sbandierato da un evento come le Olimpiadi, questo ci sembra ovviamente chiaro, ma prima ancora di questo ci rendiamo conto in senso pratico che una macchina e un meccanismo vengono a distruggere tutto, molto più di quanto non lo facciano già, e sappiamo che più aree verranno colpite, perché lo sport popolare è qualcosa che se ne lega di per tema, per topic, ma poi esistono i bisogni della gente, esistono i quartieri popolari. Quartiere Corvetto verrà spazzato via, verranno spazzate via interi complessi popolari, dove la gente comunque sta vivendo in situazioni già precarie. Per cui io ritengo che in realtà questo fatto e questo evento, oltre a rappresentare una ciclicità importante che ci dovrebbe far riflettere su quanto si ripetano a volte certe cose, perché valgono discorsi similari anche per la Valsusa, per quello che mi riguarda, e non mi dilungherò in questo. Di base, i grandi eventi prosciugano tutto ciò che vuole essere alternativo a delle imposizioni, e quando questo succede le imposizioni devono essere più forti, devono schiacciare tutto. Per questo ritengo che l'abitare, il lavoro, il viversi una città come individui, come la intendiamo noi, diversamente da quelli che sono dei canoni sistematici e capitalistici, è veramente in gioco, per davvero. Per questo, come compagno della rete di sport, come compagno di Off Topic, come compagno di tutti i compagni che comunque sensibilizzano su quelle che sono le lotte di tutti, io sento che ognuno di noi sa essersi coinvolto, sa sentirsi coinvolto. È solo qualcosa che si avvicina, che sappiamo che si avvicina e che è già successo. E cerchiamo di organizzarci. In quanti più che riusciremo ad essere, in quanti più e quanto più riusciremo a contrastare qualcosa che in realtà di fatto avverrà. Ma rispondere è sempre importante. Grazie. Grazie, Telmo. Yes, io volevo solo ricordare qualcosa che forse alle compagne di Basche non è noto. L'attuale sindaco, primo cittadino di Milano, è stato manager del grande evento citato prima, dell'Expo 2015. Non so se me la sento di chiudere con questa notizia. È stato processato e condannato, la procura aveva chiesto 13 mesi ma poi sono diventati 6. Questi 6 mesi di reclusione sono diventati 45.000 euro, che ovviamente il nostro sindaco non ha nessun problema a pagare. E questo ovviamente ci ricorda come in realtà la legge non è uguale per tutte e per tutti, e come a maggior ragione ribadisco quello che è già stato detto, non ci resta che organizzarci e riorganizzarci di nuovo anche sulla base di quello che è la storia che conosciamo. E è secondo me il momento in cui non dovremmo far finta di non sapere come vanno le cose. E non vorrei citare i movimenti climatici dicendo che non abbiamo tempo, perché secondo me il tema non è questo. Il tema è che sappiamo le cose e usiamo queste conoscenze per entrare in azione. I dati ci sono, le storie ci sono, gli spazi vanno difesi, perché ne abbiamo persi 5 o 6 nell'arco dell'ultimo anno. E oltretutto mi viene da sottolineare che gli spazi che sono stati colpiti innanzitutto e sgomberati erano quegli spazi che erano più vicini al tema dell'abitare, e non è un caso, perché questo tema mette in discussione i processi citati appena citati prima: finanziarizzazione, gentrificazione, la lista degli Ione è lunghissima. E niente, stiamo bene attente, attenti a quello che accade, e ricordiamoci che non sono questo loro con la L maiuscola, non sono l'unica parte a poter essere preparata, perché lo stiamo facendo anche noi e dobbiamo assolutamente andare avanti così. E ovviamente il microfono è aperto, quindi. Arriva qua? Ah, grande. Noi veniamo dai Paesi Baschi, all'Euskal Herria, veniamo con la Brigata Internazionalista di Askapena, il movimento internazionalista storico dentro il Movimento di Liberazione Nazionale. E niente, quest'anno Askapena sempre ha fatto brigate internazionaliste, però soprattutto negli ultimi anni più in Latino America, Abya Yala, Kurdistan, Palestina, e da un paio di anni abbiamo riniziato a fare brigate pure in Europa, comprendendo che pure nel centro imperialista c'è necessità di solidarietà tra i popoli, la classe trabajadora, classe operaia dei popoli oppressi, quindi un poco per ritornare, che per togliere un po' questa specie di folclorizzazione che c'è pure l'internazionalismo, e sembra l'internazionalismo è semplicemente guardare al sud del nord e del mondo, e l'internazionalismo dobbiamo fare pure tra i popoli del centro imperialista per attaccare il cuore dell'imperialismo. E quindi quest'anno abbiamo ricominciato, c'è una brigata per ora in Grecia e l'altra è nello Stato italiano, nella parte del nord, che soprattutto il centro sarà il campeggio della Val di Susa, e staremo in valle. E niente, dai. E se volete già vi faccio la vostra contribuzione un poco sul dibattito, che tra l'altro ci sembra super interessante, soprattutto qua noi siamo due di Bilbo e due di Rugna. Io vengo da Bilbo, quindi da Bilbao, e vi dico un poco come ci riflettiamo totalmente in questi processi che state avendo. Bilbao, Euskal Herria in generale, un po' il paradigma di sviluppo capitalista che sta tenendo negli ultimi anni, realmente già dalla fine degli anni 90, quando iniziamo con il processo di desindustrializzazione, terziarizzazione, è stato proprio il modello dei macro eventi, che si dice, i grandi eventi. Non hanno fatto eventi così in grande scala, che probabilmente sono più redditizi all'ora speculativa, però sì molto più costanti. Per esempio lì il più grande che abbiamo avuto a Bilbo è stato la MTV, e fanno eventi, la finale di rugby, la finale dell'europeo di basket, quindi ed è una costante, ogni sei mesi ci sono questi tipi di interventi, grandi investimenti immobiliari. E tra l'altro è interessante vederlo, perché non so se qua ci potete raccontare, forse da fuori sì che si vede un poco, i grandi eventi nello Stato italiano sembrano come satellitadas, che si dice, no? Che a un certo punto dei capitalisti locali o internazionali dicono andiamo a devastare e espropriare questo territorio concreto. In Euskal Herria è un po' così, però in Euskal Herria sì c'è una strategia capitalista ed è molto, la teniamo almeno detettata e individuata, che è la strategia di costruire l'Euskal Herria, non so se ce l'avete presente geograficamente, tra il nord dello Stato spagnolo e il sud dello Stato francese. Vogliono costruire tutta quella parte come la chiamano loro la metropoli vasca. Ed è un progetto realmente interessante alla prospettiva capitalista, alla prospettiva del nemico di classe. È un progetto in cui ogni capitale dell'Euskal Herria c'ha una specializzazione capitalista diversa. Per esempio Bilbao è la città dei macro eventi, l'hanno fatto appunto quelli che ho detto, hanno fatto un paio di centri che sono centri giganteschi per accogliere macro concerti e cose così. Hanno fatto Gasteiz, che è la capitale amministrativa della CAV, e hanno fatto la Green Capital, la capitale verde ecologista, un po' il greenwashing. E Donosti, che è l'altra città della CAV, hanno fatto più sulla questione culturale, è stata penso capitalità culturale qualche anno fa, c'hanno lì una movida di cinema. Irugna non so bene che in questa specializzazione come entra, però è chi une tra l'altro questa questione, questi interessi capitalistici che si vanno sviluppando nel territorio, e il nuovo TAV che vogliono fare che passa, che unirà lo Stato spagnolo con lo Stato francese passando per Euskal Herria. Quindi vediamo proprio il modello lo vediamo tutto, ovviamente gli effetti sono tutti quelli che avete detto, gentrificazione, non è semplicemente, sono grandi benefici per il gran capitale internazionale, però sono pure gentrificazione, sono sfratti, sono tutti i quartieri popolari museizzati, che sono diventati dei centri commerciali a cielo aperto, periferizzazione e proletarizzazione della classe lavoratrice, persecuzione dei migranti, un po' tutto quello che avete, di cui avete parlato. Quindi adesso ci vediamo super riflessi. Sì, il capitale europeo è quello, sì, no? Periferizzazione alla fine è un po' la strategia che si è fatta storicamente fra il centro imperialista e la periferia imperialista. No, Fanon parlava della zona del ser, zona dell'essere, la zona del non essere, per dire la linea geografica. Oggigiorno questa linea ce l'abbiamo dentro Europa, no? Come tra i quartieri popolari e il centro, tra le persone che siano persone bianche con i nostri documenti e le persone senza documenti che sono i no humanos, che decía, no, che non arrivano nemmeno a essere esseri umani, come diceva Fanon. Prima era semplicemente una divisione geografica, oggigiorno questa divisione centro imperialista e periferia imperialista ce l'abbiamo dentro dello stesso centro imperialista. E già mi zittisco. Grazie mille. Grazie. Tu vuoi aggiungere qualcosa sul rugby? Per non piangere. No, vabbè, dai, io vi saluto, faccio l'ultimo interventino, solo perché ci tengo comunque a... Ci tengo comunque a ricordarmi che sono 3 anni che mi trovo all'interno di una realtà di sport popolare, inclusiva, che mi ha permesso di scoprire tante cose nuove, compresa questo percorso. E in primis io sono molto riconoscente a una persona che è sempre stata un trenino, motore trainante di un sacco di iniziative individuali e collettive, che da ieri sera non potrà più essere con noi per un po' di tempo. Io volevo solo rivolgere tutta la mia vicinanza a questo compagno che comunque mi ha aperto un mondo, se devo essere sincero. E saluto Pasca e vi saluto a voi. Molto... Molto sinteticamente, una delle ricadute, una delle conseguenze di questi meccanismi sono i DASPO. Sicuramente chi di voi ha partecipato a uno degli ultimi cortei no CPR era venuto fuori questo tema, cioè la città di Milano è stata disegnata. Ecco, queste sono le zone DASPO del comune di Milano. Cioè, sono delle aree dove il cosiddetto decoro è più stringente, cioè dove c'è meno tolleranza per le infrazioni più banali, perché in quelle zone ci sono dei punti di interesse appunto per i grandi investitori, per il capitale, potremmo dire. Per la finanza creativa, tra l'altro, che genera profitti dal nulla, addirittura comprano le aziende con i debiti dell'azienda, senza cacciare un euro si comprano le aziende usando i debiti dell'azienda. Questa è una delle ricadute sociali. Noi parliamo anche di fasce più deboli, ma in realtà cominciano ad avere problemi a Milano, a vivere a Milano, anche persone che guadagnano anche 40.000 euro all'anno. Cioè non è che solo il sottoproletariato ha problemi, certo, con loro si usano meno riguardi, ma questo problema, tant'è vero che quasi a reti unificate i media mainstream hanno sollevato questa questione ultimamente, anche con le tende davanti al Politecnico è stata sollevata la questione abitativa. Cioè Milano, persino quelli che hanno i servi che hanno agevolato questo processo hanno dovuto ammettere, non voglio fare nomi ma solo nomi e cognomi, Beppe Sala e Piercemento Maran, quelli che hanno agevolato questi processi, hanno detto: oibò, ma Milano è troppo cara, sta diventando troppo cara. Cioè proprio oltre al danno la beffa, e anche a Milano stanno demolendo, stanno cancellando interi quartieri popolari. Al Corvetto è stato detto, ma anche al Giambellino, dove praticamente verrà raso al suolo il quartiere popolare, verrà riedificato, ma solo una minima parte sarà ancora edilizia residenziale pubblica. Ci sarà del social housing cosiddetto, che come sappiamo non ha niente a che vedere con i bisogni abitativi, e a queste persone non verrà data nessuna soluzione, tutti fuori dalle balle, i poveri si accomodino educatamente all'uscita. Semplicemente, quindi serve muoversi, serve agire. No, questo per esempio, per riprendere altri strumenti finanziari appunto citati prima, ci fa un po' capire quanto sia interessante basare l'economia sul nulla, cioè effettivamente sul nulla, se non quelli che sono i loro interessi e ribaltarci come dei calzini, costruire palazzi ogni due mesi, grattacieli, la città di Milano lo racconta visivamente. Questo è un indice che ci mostra questo interesse. Siamo passati da 50 fondi immobiliari nel 2000, nell'arco di 20 anni siamo arrivati a 518 fondi immobiliari. Non sappiamo ancora cosa sono, ma non perché siamo stupidi e stupide e non perché non ci incuriosisca la cosa, ma perché è, come dicevamo prima, veramente difficile la ricerca, perché è fatta di scatole cinesi, è fatta di labirinti, è fatta di buchi. Però qui vediamo, per esempio, con un semplicissimo numero quanto le politiche siano basate sul nulla, non sui reali bisogni, ma non solo bisogni, non mi fermerei solo ai bisogni, sui reali su quello che facciamo nella vita tutti i giorni, cioè mangiare, dormire, cioè quello che in teoria ci chiedono di fare i nostri corpi per vivere, tutto questo non viene contemplato, è tutto astratto e lo astraggono così, perché effettivamente loro in questa città non ci vivono. Stavo cercando di ripescare qualcosa di interessante da questa presentazione. Vabbè, e qui ci sono alcuni nomi, cito Coima, che sarà uno dei nostri nemici e lo incontreremo spesso nei prossimi mesi, nei prossimi anni di lotta. Beh, è uno dei trasformatori principali della città e anche collegato appunto alle trasformazioni dovute a questi progetti per le Olimpiadi. E vabbè, più o meno ci siamo. Ecco, lì è dove siamo, dove dicevo all'inizio, dove a casa off topic per il momento. Ecco, questi sono tre esempi, tre attori che appunto stanno trasformando la città. Sono invisibili agli occhi di chi abita la città, ma se impariamo a guardare bene, in realtà li vediamo colare cemento e degradare il verde dal più selvaggio, che è l'unico che può veramente favorire non solo, diciamo, pulizia dell'aria, ma tante altre cose che conosciamo. Insomma, degrado totale, il loro degrado. E vabbè, comunque, questo è stato un momento fugace di ingresso l'anno scorso allo Scalo Romana. Ci siamo occupati di scali perché appunto rientrano nelle attenzioni di queste SGR, di questi grandi fondi di investimento. Ecco, vabbè, poi ci sarebbe tanto da dire, quindi io chiuderei qua se non ci sono altri interventi. La valle, vabbè, in realtà credo che sia quasi superfluo, però lo diciamo, ci vediamo anche con le compagne basche, compagni baschi, ma ci saremo anche noi con un altro approfondimento sulle Olimpiadi il sabato 29. Quest'anno il Festival dell'Alta Felicità a Venaus sarà sabato, domenica e lunedì 31 fino a lunedì 31 luglio e sarà il prossimo appuntamento reale in cui insomma, toccheremo il tema e teniamolo caldo, non c'è proprio tempo da perdere. Bella, grazie.